Visto, anche da poco. Ex Machina, praticamente la tipa se l'era girato quel gonzetto lì per scappare da lì. Dunque l'attore invece, il creatore era quello con la barba, che lì era pelato, quell'attore conosciuto, non mi viene il nome, credo sia italo-americano, può essere, ha un nome, non Scagnetti, papà. Boh, non ricordo. Poi ieri ho visto un altro del genere, Upgrade, e poi l'altro giorno ho visto I Am Mother, un altro dove praticamente c'è questo androide che fa la mamma all'interno di un laboratorio dove praticamente coltiva feti surgelati, dai. Pure. E tu te lo ricordi quello vecchio, primi anni 80, Generazione Proteus? No, non... comunque mi sto ricordando un po' di cose, perché sono delle cose interessanti, sono molti spunti di verità in mezzo a questi film. Sì, quello, vabbè, della vecchia guardia come film, gli effetti sono così, però era un computer ovviamente che inizia, c'è un'intelligenza artificiale vera e propria che si accorge dello scempio dell'uomo anche sul pianeta, lì si ribella, poi riesce, non so, in modo sintetico a fecondare una donna e avere un erede, che avrà la sua intelligenza smisurata però in un corpo umano. Poi c'è tutta la filosofia di Etro, eccetera. Ah, adesso mi è venuto in mente un dettaglio. Ti ricordi 2001, Odissea nello spazio, no? C'era praticamente il computer HAL 9000 che controllava l'intera astronave, insomma, si occupava della gestione della missione. Allora, fai così, cioè se vuoi sapere il nome vero del computer devi andare avanti, allora nella lettera che c'è dopo, e ottieni il nome del computer. Aspetta, poi no, sto elaborando, aspetta, avanti il break. No, non è il break, ho schiacciato io, va bene il baracchino? Sì, Anto, va bene, funzia. E il mic qual è? Da tavolo? No, è MB4, da tavolo. Ok, ma tanto una persona che ci tengo, non sempre sono qua, non ho mai detto a nessuno. Ok, dai, sono passato a provare col baracchino, adesso scendo giù e mi metto a cucinare. Ehi, Anto. Ok. Quindi funziona tutto. Gianni, non ho inquadrato, non ho seguito bene il discorso. Per sapere il nome del computer devo andare alla lettera successiva. Già, bene, facci da te che sei vicino. Ehi, alla grande Anto, aspetta che dico una cosa a Marco. Allora, bianco per me, ci sentiamo. L'H, la e la L. Tu di queste tre lettere vai avanti di una lettera, cioè dopo l'H cosa c'è, dopo A cosa c'è e dopo la L cosa c'è, e otterrai il nome del computer. Sì, allora aspetta, un attimo, devo vederlo visivamente. IBM. Marco, è IBM. Ah, in quel senso, sì, dopo l'H c'è la I, dopo l'A c'è la B, ecco perché si è incasinato. Sì, non potevano, se trovo quella pubblicazione te la faccio leggere, praticamente c'è questo studioso che ha fatto la ricerca di messaggi celati all'interno del film. E uno dei tanti era proprio questo, chiaramente era troppo spudorato chiamare quel computer IBM 9000, e allora hanno trovato questo camuffo. Allora, poi nella Donna Bionica avevano fatto due puntate intitolato Il Giorno del Giudizio, dove anche lì c'era un computer chiamato però Alex 7000, però siamo lì, anche la telecamerina, diciamo, no, con quel punto luminoso, e tanti hanno preso spunto da lì per fare due episodi, vabbè, più o meno dozzinali dalla Donna Bionica, però non era poi malaccio là per l'epoca. Prova. Sì, già sono uscito, sì. Scusa, mi hanno chiamato un attimo. Ehi, fai pure, dai. Vediamo un po'. Prova. Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prova, ecco. Bella cagata. Ehi, ah! Dai, ci sentiamo dopo, dai, che io preparo a mangiare, ok? Sì, Anto, ti avevo sentito anche prima, però non passavo io. Ma ho detto, ok, prima, ok, ciao. Ciao Marco, dai. Ci sentiamo, se continua dopo. E più dopo qua devo fare a mangiare. Prima il dovere, poi il piacere. Dai, buona cucinata. Ehi, ciao. Marco, ci sei? Io purtroppo devo allontanarmi dalla radio. Dai, magari ci sentiamo dopo o alle prossime, ok? Sì, già, quando capita, tanto anch'io adesso mi sto guardando la guida TV. Vediamo cosa c'è. Ciao, buonanotte, ciao. Poi California non ha ripreso, vabbè. Se c'è qualcuno all'ascolto si ritenga salutato, ok? Ciao a tutti, ciao. Ehi, ciao Marco, dai, ci aggiorniamo, alle prossime. Buona serata e buon film. Ciao ragazzi, ciao, tutti indaffarati, ciao ciao. Ciao Tino, buona serata. Ciao Marco, ciao già. Ciao Tino, buona serata a tutti, ciao ciao. Pronto, tutti. Pronto. Ehi, ciao, dimmi. Non so dubbiare io, vabbè. Ah, tu sei. E mi stavo cucinando, mi. Ah, ok, va. Kappa. Kappa, sono col baracchino, poi ti arrivo. Benissimo, radio 5, perfetta. Come vai? No, perché era sempre fermo, lo volevo accendere un po'. Ah, telerata, cosa dice? Vabbè, giusto per far andare un pochetto, dopo di mongolatra, compreso. Kappa, ma forse c'era qualche altro provando, Non lo so. Vabbè, io vado che chi faccio le cose, faccio, come ti si chiama? Un altro buco, faccio la panzetta. Andare, a dopo, ciao. Anch'io fra un po' scendo, vai. Kappa, quando ti arrivo? No, per pieno, tu. Andare, dai. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, va bene, ok, ciao. Ciao. Aiuta. Massimiliano. Adesso fallo col culo che ti guadagni il pane, miserabile. Massimiliano. Ehi, Leotti. Guarda se è migliorato, lo so, la radio sta saturando. No, negativo, magari. Allora in gioco. Vabbè, non mi dà fastidio, aspetta. Oh, l'ho appena acceso, Sono con l'HR5005. Buonissimo, no, va bene, la radio è perfettamente buona. Sì, vabbè, è freddo, cioè l'ho acceso un quarto d'ora fa, e parlando circa 200, non di più ancora. Sì. Cosa? Ciao, vedi. Meglio. No, Anto, ma è per non avere questo fondo, questo fischio eterno, più questo prrr. Salciccia. Cosa non credo, via. No, Bravo, ne ho visto un bel fatto, ma Zibone, un bel di largo Zibone nel mezzo. Ma largo, spezie, a gogo. No, così no, troppo forte, cosa devi mangiare? Le spezie devi mangiare. Si deve sentire il gusto della carne, insomma. Beh, ognuno fa il modo suo. E dove hai lavorato? A fare che cose in passato? No, non ho lavorato da nessuna parte. Questo è il primo anno. È vero? Beh, mi chiede a Cingo, se fendi a Pucu, se fendi. Ah, ringrazio poco questa roba. Chi? Ciao Dio. A lui e tanti altri, dai, non faccio nome qua. Sì, prova a venire a fare una sciacciarada, visto che il tempo sta tenendo. E poi fa caldo, non si può più fare. Non te ne chiede più nessuno poi. La potrei fare adesso, metterla sotto vuoto e tenerla per chi la vuole. Cappa. Già. E quando lo brutto è buono, è fatto più naturale possibile, secondo me vince. E poi si vuole quello al finocchietto che mi piace un bel a me. E già si sente, appena già si sente. Poi quando l'assaggi mi dà la risposta. Chi è che va? Attenzione canale 10, no. Che metto il microfono con l'eco. E c'è caro. Hai capito cosa ti ho detto? Ehi, cosa ho chiesto? No, ti ho mandato un messaggio. Ah, aspetta, no, non stavo guardando il telefono. Perché c'ho le cuffie e non sento... Scrivendo. Ehi, ah! Chi è la lleva? Ah, che cane! Gigi la scroffa! Avanti! Miau, miau. Pronto, non se ne sente, la roba è che nell'alimentatore l'ho tolta, si sentirà quella della radio forse. Come l'hai tolta? Allora che scaldano? Ui, ma col bello è Gohan tu. Ma chi è quello da 50? Sì, quello da 50 che ti ho fatto la foto. Ho tolta la ventola, ho messo un termometro che ho messo di quelli piccolini, no? Che mi segnava la temperatura. Ma non è arrivato oltre 30 gradi, che agitava di avuto la ventola, a che si intendia la ventola dell'alimentatore, capito? Che ce l'hanno sopra. E allora l'ho tolta e non scalda proprio per niente. Ho capito adesso quello che mi hai detto. No, io ce l'ho lasciata, ma non penso che influisca molto perché ce l'ho lontano. Perché sta sempre accesa, capito? Puoi mettere un interruttore anche, però io dopo che ho constatato che non scaldava niente nello troll, cioè ho staccato il cavetto, dai, la spinettina che c'ha dentro. Capo, no, io ce lo lascio, non mi interessa. Ci avessi potuto qua, l'alimentatore me l'avrei sfossato, cioè la ne avevi aggavato dai nocche. Avrei fatto i capi lunghi e l'avrei tolto. Non mi interessa di avercelo in mezzo agli yo-yo, capito? Ecco, sono comodi perché sono piccolini, vanno bene, vanno veramente bene. Capito? Non è che ci devo attaccare questa cosa. Ci ho attaccato anche quello in aretto. Ma col bello di Goha. Che cosa rifate? Non rifà niente, sono comodi e alimentano bene. L'unica cosa che si dovrebbe spostare da luogo in chi è, cioè se c'è la possibilità di allontanarli molto, di allontanare, fai i capi più lunghi e gli allontani, e via. No, io ce l'ho dalla radio, ce l'ho a 30 centimetri, capito? Se senti una ventola è quella dell'altra radio, riesci a vedere? Guarda. Vedi? Adesso non la senti più. Veramente con nuda, ma non intendi allungare nuda manco prima. Sì, perché un altro c'ho le cuffie, mi sta ascoltando, capito? Gava. Lo so. Comunque. Ma qua si sente qualcosa, poco si sente, no? Ma così, non so cosa sia. La ventola? Ma la radio? No, la ventola del mio dottore, ma è lontano, Ci diamo buchi, qua in piazzini. Ma quanto è? Lui la lascio stare perché non si sa mai. È piccolo, c'è da 30, no? Non si sa mai che cade il gruppo e si chiuda tutto. Ah, ho capito. Capito. Ma questo da 50, oggi ho pagato 16 euro. Questo è a 50 ampere. Aspetta, ma non bene veramente. Se no, non vale nessun tipo di problema. Aspetto? E via. Oh, dai, io voglio farmi la doccia, dai. Io va bene a te, stavo rispondendo a dei messaggi, cappa. Chiedo perché... Vabbè, dai, ci sentiamo domani. Cappa, dai, ci sentiamo domani, io sarò direttamente. E poi, lasciando giù, mi faccio la doccia, la metto in gocca, che sono un bel tracco. Dai, buonanotte! Mi sta salutando. Ah, vai, ci mi auguro. Ciao, ciao, ciao Lula, ci sentiamo le prossime. C'è problema. Mamma, io cadi con una macchinetta di rubiscio. Appunto siamo arrivati. Ciu ciu. Quanto ti arriva Claudio, per curiosità? Te lo so chi è, non ti preoccupare. Dimmi che arriva. Vabbè dai, buonanotte a tutti. Io sono in camera, sto guardando il film eccetera. Hanno chiuso tutti, ho sentito. Ciao Claudio, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao ciao, al prossimo. Io ne smonto tutto domani. Così se io cani tutti quello. Non lo dico va. Se avessi bruciato c'è gran bagaccia di mammadoia forse. Mr. Bombolo, attento Mr. Bombolo, Bomboli, attento Bombolino, Bombolino, Mr. Bombolo, attento Mr. Bombolo, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, prova, prova, prova, prova, prova, prova, radio, prova, prova. Mister Bombolo, ha detto Bombolino, Bombolino, cosa fai nel mio giardino, Bombolino? Ola, ola, ola, ola, ola, ola. Prova. Bomboli. Attento Bobolino, Bobolino. Attento Bobolino. Attento Bobolino. Ora, ora. Genesino 610, pronto? C'era questo ponticello nel circuito stampato da una parte all'altra, ho preso, l'ho tagliato con la forbice, ho visto resistenza attaccata, non ce n'era come mi ha detto Giulio, qua, perfetto, a chi cazzo li do caricati il microfono oggi compreso io? Uscendo, sì? 9.25, sì, non c'è problema. No, vabbè, la radio mi interessa. Ora! La radio è la tua, ma una bombetta. Radio perfetta, alla grande. Santiago 3, Luca, sei arrivato. Vabbè, California. Ciao, Cla, buonasera. Allora. Domani battimi un po' con il radio, mi Lugarie. Un bel bobo. Solo 4 ne battini domani. Di nuovo a pedana, eh. Ciao Fra, Santiago 3, e andavè. Interessante sentirsi. Aspetta un attimino che sono appena rientrato, che mi pigiamo. Sono un bel stanco oggi, come sono uscite queste raga degli spacchi nelle dita. Mi fanno un male allucinante, va. Ma manco male devo uscire le dita a te. Allora, manco male, Lu, manco male. Ah, sai, anche a me mi è uscito, mi si è spaccato proprio vicino all'unghia. Mi fa un male, io non mi sono tagliato. Un casino, allora ce l'ho proprio nel dito grande il taglio. Ma te sei uscito una bicicletta? Cazzo, ho già pigliato una bicicletta da corsa, cazzo. Non posso stare dalle balle, E non ti ci sono ingrossati, bro. Cosa mi ha fatto, cazzo? Mi ha scaldato proprio di fronte alle spalle, cazzo, guarda, allucinato, un dolore che non te ne dico. Ero da un mesetto a prenderla, stamattina l'ho presa a fare un giro, baccarità. Come mai? Ma allora stai usando pantaloni stretti o qualcosa che ti ha riscaldato? Ho utilizzato quella tutta la ginnastica, ma non va bene, ci vogliono dei pantaloni imbottiti. Allora, quelli che ci hanno salva slip, quella roba lì, per andare in bicicletta ci vogliono i pantaloni giusti, se no ti cade io. Ma infatti la gestione di questa diventa roba a razza, va, che non ne voglio più. Vabbè. No, io ho venduto un po' di radio a un collezionista di Treviso. Domani parte il DAC e un altro po' di radio. Comunque il DAC è venduto. Un prezzo allucinante, buono, bello, sono contento. Ma è tanto definitivo, qua. Il problema è quello, se non le usi la radio, cosa te ne fai? Averne tanto, te ne tieni due, boh, tre, massimo, avrei venduto tutto, cosa te ne fai? No, ne tengo solo il Magnum, il Galaxy, il 430. Due vintage me la tengo, però da che ho venduto. Venduto, tutto venduto. Così basta, se no la radio si rovina, capito? Sento un altro telefono di un collezionista di Treviso, questo Giuseppe, mi ha fatto un'offerta soddisfacente e ho ceduto, dai. Intanto tenerla lì senza usarla, ma adesso ti comodo, te la faccio sentire col microfono normale. Ma lo sai quanto esce bene col microfono normale? Aspettami. Prova. Questo è il microfono suo normale, Fra. Infatti ce l'ho tutta la sera accesa perché gli ho mandato un video e rimasto qua all'imbitto, mi ha detto caspita, nuovo Vision perfettamente funzionante, tutte le luci accese, tutto qua, microfono normale, una bomboletta, 9,20 radio 5 perfetto, 10 watt 10 watt modulati 15, microfono normale, microfono suo normale, capito? E va veramente bene, io non l'avevo mai provata col microfono normale, sempre con il microfono da tavolo, però va veramente bene, è tutta la lì accesa. E infatti mi ha detto veramente complimenti, l'hai tenuta in ottimo stato, e che ti ero grigio, era dentro l'armadio coperta anni, ci ho rimesso le valvole, ma è nuova, fiammante. Il DAC è questo? E il DAC, mi dicevo ti mando la foto col microfono normale. Questo è il DAC Mark 10, DAC Mark 10, non è il Mark 9, questo c'ha 240 canali con l'SSB, veramente molto bella, però ti ripeto, non l'avevo mai provato col microfono normale, sempre col microfono di tavola. Oggi ho già detto, ma esci che la proviamo, faccio un video col microfono normale. Ed è veramente molto interessante col microfono normale, veramente. Mi sa che ne ha una Daniele di quella, un DAC, mi sa che lo stava vendendo, prova a vedere se ce l'ha ancora. E allora questa è di Daniele, e non l'avevo presa da lui, boh, sarà 6-7 anni fa. Ma ne aveva due Daniele? No, una l'aveva venduta, era rimasta questa bella, nuova, io gli ho cambiato un potenziometro perché era storto, ma ha cambiato Vittorio. E basta, e boh, colore originale, il case originale, quel grigio scuro, un po' più tipo Kenwood, una cosa del genere, maniglie sono fiammanti, cromate, tutta cromata, bellissima, veramente bella, tenuta in buono stato questa. Tutte le sue scritte, l'altra era senza scritte, capito, non casino, questa è nuova. Ma sai quanto me l'ha pagato, no? Vasca di là. Quella è una radio che vale un bel soldi. L'ho venduta bene, fra. Non te lo dico qua, ma l'ho venduta molto bene. Molto, molto bene. Adesso, domani devo contattare il corriere, praticamente, perché devo fare un imballo particolare. Praticamente mi ha detto questo tipo che lui di radio ne spedisce tante, ne ha comprato tante, che è un collezionista, non ha un mari. Mi ha detto, quando mi spedisci il DAC, togli i tappi degli strumenti, perché si tolgono, sono in casso, togli i tappi degli strumenti, le fai una protezione sugli strumenti, e poi le metti il nastro, quello in carta, non le mettere il nastro dei pacchi, sennò si attacca, le metti quello in carta, e i tappi degli strumenti me li metti dentro un pacchettino, avvolti, capito? E la radio, anziché metterla frontale davanti, la giri a testa a terra, con ben fatta, capito? Perché se danno dei colpi agli strumenti, li rompi i vetrini, sono introvabili, sono tutti marcati DAC, capito? Sono originali. E mi pare che sono in vetro, quindi lì. Si conferma, capito? Quindi devo fare un bel imballo. Adesso devo sentire prima il corriere se passa lui a prenderla tramite Francesco, quello degli punti. Se mi manda lui il corriere a prenderla, se no gliela devo scendere io. E si conferma, andava, è fatto bene a venderla, cosa ne fai? Ma io ti dico la verità, io ho la linea del 680 che non ci tocca, assolutamente. Ne metti 60, 680, tutta la AT250. Poi c'ho il magno, da dove va giù il 68, lui basta, sono garribito, non vendo più nulla, mi tengo queste tre e basta. No, io già ne ho altre, però questa praticamente quando ci siamo sentiti ha voluto le foto delle radio e io sinceramente questa non l'avevo messa in mezzo, ha voluto tutte le foto delle radio che ho per vedere quelle che volevano. E manca a farla apposta, siccome c'è l'Inuit e il Bori a fianco al DAC, è uscita mezza parte del DAC. Lui come ha letto DAC, mi ha mandato un audio, mi ha detto ma c'è il DAC, il Mark 10? L'ho detto sì, no, fammi un video, mi ha fatto l'offerta, abbastanza consistente, gli ho mandato un video, ma l'ha confermata subito, e non solo questa, me ne ha confermato altre due, praticamente il Midland, il 574 e l'Inuiti vuole anche, quindi adesso ti ripeto, vuol sentire a Francesco se mi manda lui il corriere della GLS a prenderle o se gliele devo scendere io. Adesso vediamo, domani lo chiamo, vediamo cosa mi dice. Cammino X qual è? Quello 23 canali? Eia, e anche quello è nuovo, anche lì ha voluto un filmino di tutte e due, sono tutte nuove queste radio. E tutte funzionanti al 100%, non ha geomondetta la radio, mi conosci. Tutte funzionanti, l'unica che funziona un po' peggio delle altre è il patch. E quella infatti non la do, me la tengo, ce la butto dentro l'armadio, ma ne frega niente. Ma le altre sono tutte funzionanti, capito? E tutte con i microfoni da tavolo. Infatti mi dai anche i microfoni da tavolo? No, i microfoni da tavolo non ti do. Ti do tutti i microfoni originali delle radio. I suoi microfoni originali, proprio marcati originali, senza mandarti mondezza. Cazzo, il patch 23 canali, cazzo, una bella radio, è poco c'è forte quello lì, ce l'avevo io, eh. E io c'ho il 2008 SX, cioè no, il patch X2008R, 23 canali più l'11 alfa, anche quella esce molto bene, c'è l'MB più 5 lì attaccato. Però ti ripeto, fra, non perché ce li abbia io, però io le faccio girare tutte e funzionano tutte perfettamente bene. Il DAC non l'avevo mai provato col microfono normale e ti dico che spinge, che è una meraviglia. Sono belli. Il faccio ce l'ho avuto, l'ho dato, ma adesso ho pentito che l'ho venduto quel faccio, perché c'avevo anche il Tokai, gatta, il 5024, che era una bomba di apparecchio, l'ha giocato. Ma sono entrate in Radio Belle, gatta, me l'ho venduta. Lo so, fra, però quando entra la radio belle bisogna tenerle. Io ti ripeto, prima di restare intanto devo traslocare, perché mi finisco i lavori che devo fare e me ne vado da qua. Perciò le radio ne ho tante, sto iniziando nuovamente a fare man bassa, però non do niente a Sassari, assolutamente. Mi sono rotto le palle, poi te le critica, non c'hanno problemi, qui e là. Ho trovato questo collezionista che è di una gentilezza allucinante, infatti ho detto guarda che qualche d'una magari la devi rivedere, qui. Ma ha detto non ti preoccupare, io sono collezionista, non sono uno che sta lì a cincischiare, sono radio naturalmente vintage, di vintage stiamo parlando, e se c'è un difettuccio, un problemino me le risolvo io le cose, a parte il fatto che io le metto lì, però il DAC no, il DAC col video che ho visto sicuramente sarà la radio che userò molto molto volentieri, perché è molto molto bella. Lui c'ha il Mark 5, perché hanno fatto il Mark 5, il Mark 9 e il Mark 10, lui al Mark 5 stava cercando il Mark 10, questo è il modello che c'ho io, e l'ha trovata. E come ce l'ha trovata? Il DAC lo conosco, perché quando andavo da Daniele avevo visto quel DAC, è tutto cromato davanti, è un bel bello quella radio, bello veramente. Sì, c'aveva un problema del potenziometro che era da cambiare, però per il resto era a posto, tutto valvolare a 220, e poi ne aveva altri, non so che fine gli ha fatto fare, c'aveva anche il 440, il 140, l'MC60, forse ce li ha venduti quelli lì, boh. Si è venduto tutto, già lo so. Sì, quella che aveva il potenziometro storto da sostituire. Sì, fatto, tutto a posto. No, ma chi sa, non ve ne fa nessuno, non ve ne Galaxy e ne Tricche Ballacche che tenga. Se ti sto dicendo che come ho visto la scritta DAC, me l'ha detto subito, ma non mi dire che è un Mark 10. Sì, questo è un Mark 10, perché io ho il Mark 5, mandami la foto subito, immediatamente. Ti ho mandato la foto, le ho fatto un video e mi ha detto confermata, mandami le coordinate bancarie e ti faccio un bonifico. Poi mi ha mandato un altro paio di messaggi, mi ha detto fammi qualche video del Linoite del Midland, che voglio avere il funzionamento, gliel'ho fatto e mi ha confermato anche quello, capito? Poi gli altri decido cosa fare, se regalarle, se restituirle a chi me le ha date, capito? Adesso vedo, devo contare sino a 10, però mi tengo solo il Galaxy e il 430, fra, intanto non ne va in uso. Io adesso mi sto organizzando per iniziare a sistemarmi tutto, imballare la roba, fare, perché il prossimo mese devo fare l'atto, nuovo proprietario di questa casa, dobbiamo fare l'atto, quindi devo essere pronto, mi ha dato 2 mesi di tempo per andare via, quindi dopo l'atto, dopo fatto l'atto. Perciò faccio, devo essere già pronto. Adesso, se domani è bella giornata, salgo sul tetto e tolgo quelle due antenne che ci sono, che sono rimaste, non servono a niente, e quel dipolo. Piego tutto, metto tutto in mansarda, poi mansarda già, quella roba lì me la porto via con calma, però libero il tetto, la mantova la toglierò con calma lo stesso, però a casa mi devo iniziare a sistemare un po' di roba, fra, capito? Piano piano. Piano piano. E un medicato volevo il C80 mio, ma questo C80 non si tocca. Ma neanche per le balle lo vendo questo. Ehi, come il mio 430, adesso le sanno che è il centro assistenza, che me lo sto facendo fare tutto nuovo. Non aveva niente perché gliel'ho mandato funzionante, però mi sta cambiando tutti i kit delle spinette, no? Sai, conosci come sono fatte quelle radio, tutte quelle spinettine bianche che vanno a incassare, eccetera. Erano tutte consumate, giocavano, facevano, mi sta mettendo tutto il kit nuovo delle spinette, sto facendo tutto l'allineamento, mi ha cambiato qualche condensatore, qualche fesseria, e quindi a Wagi nuovo nuovo, tutti me lo vendi, non vendo nulla io. Quella è la radio che non esce da qua perché me la tengo. Quella me la tengo assieme al Galaxy e il resto praticamente le ho tutte date, me ne rimangono tre, però molto probabilmente, sto decidendo, sicuramente le do una persona veramente che merita, perché si è sempre comportato bene con me e poi me le ha date lui, quindi voglio restituirle a lui, poi ne faccia quello che vuole. Io sono fatto così, fra, tu lo sai, che mi tratta me, io tratto me, che mi biglia Baruguru, da me ha solo calci nel culo. Ah, io ci confermo, io gioco Roma Tessi, è così. Sì, in definitiva io tengo questa, quel magno che ho, è quel 68 qua, basta, no, non me ne porto nulla. Mi ha chiamato Fabrizio, uno vicino a casa, il camionista, forse lo conosci, quello che lavora da Nieddu, cioè volevo la 48 modificato, fatto me lo voleva dare 80 euro e non l'ho preso, pensa tu, vado da Minico. Oh, fra, ci ho provato due volte, ho tenuto quella di Massimiliano tutta l'estate una volta, però sono radio che a me praticamente scottano, ho capito. Adesso però che mi sono liberato anche dell'altro problema amatoriale, non me ne fotti più nulla, cazzo me ne fotti, fortunissimo e poi mi piace. E quindi niente, ce ne ho una l'avevo venduta, un bel 3009, un Superstar 3009 favoloso, tutto blu, guarda, era una cosa bella, ma bella, bella da vedere. E l'ho dato a quello di Alghero. Poi me ne è entrata un'altra, l'ho ripresa, adesso è da una parte, però no, non me la sento di fare, insomma, un casino così, faccio passare un po' di tempo, poi torniamo alla ribalta. Adesso vediamo, adesso devo pensare a trasferirmi, a sistemarmi bene la casa, perché lì ci sono tutti i mobili nuovi, tutta questa roba che qua, mi sembra che ci sia solo il salotto a portare via, c'è tutto da rifare nuovo là, quindi devo sistemarmi bene la casa. Una volta abbiamo sistemato bene la casa, vedo quello che posso fare, in qualche angolino ci buttiamo, perché se la radio non ne faccio più, non ne spreco più di camera, così come ho fatto qua, no, assolutamente, un angolino, metterò il Galaxy, il 430, l'alimentatore suo e colonnina sua, e boh. Su che andiamo, il resto è tutto noia, come dice Franco Califano. Infatti io ho fatto così, io il C80 adesso ci ho messo in camera da letto, ogni volta pigliavo freddi, vivi, mi sono sdraiato, il caldo ce l'ho qua, l'altro ce l'ho nell'altra camera, comuto, tac, e mi tratto vitto, comuto, tac, e uso l'altro. Ma va bene, ma neanche amplificatori io uso qua, esco bene così, cosa mi affutti, voi? Amplificatori, cosa ne fai amplificatori? Ha giù 4 amplificatori, 2 a valvole HF e 2 allo stato solito HF. Hai visto questione che ha giubilato l'ultimo? Quelli me li tengo, quelli li conservo e me li tengo, non si sa mai. Però il resto, fra, non c'è più niente da dire, dai, lasciamo perdere. Io più ascolto e più rimango in radio e più sinceramente mi accorgo di tante cose, quindi va bene così. Una radio, se ne ho voglia entro, se non ne ho voglia rimango in ascolto, non me ne fotti nulla, fra. Però non mi metto più a fare quello che ho fatto prima, capito? Assolutamente, ti ripeto, prima di tutto mi sistemo tutto quello che devo sistemare, casa, eccetera, eccetera. Quando poi ho finito tutto, che radio devo mettere? Questa, ok, metto quella lì, boh, basta, finito, una, per fare due chiacchiere, cando una giugana, ma sarà molto, molto, molto difficile. Sarà molto difficile, ne parlavo proprio oggi con mia figlia. E metto, ci sono altre cose che devi pensare lì, perché già lo sai, tu vicino in campagna, ci sono un sacco di cose da fare, quindi il tempo già l'ho ammazzo diversamente. E poi mi voglio impegnare un po' di più a dare una mano a mia figlia, perché adesso fra un po' devono decidere che cosa fare anche tra di loro, e quindi sicuramente incrementerò io a posto di qualche don altro, capito? Vabbè. Però si va avanti, fra, dai, si va a migliorare, non a peggiorare. Io sono contento che ho realizzato il mio sogno, piano piano, e se riesco a portarlo a termine sono più che contento. Per il resto si va a bigliare in culo. E si conferma. Vabbè, in campagna c'è sempre da fare, ma non è che io ogni tanto faccio qualcosa, ma noi ti buttare sempre il vendico. Solo che ti posso dire una cosa, che in campagna sei libero, puoi fare quello che vuoi, nessuno ti rompe le balle, e se non sei comandato da nessuno, e fai ciò che ti piace, capito? Tutto lì. C'è una pace, guarda, io adesso sto dormendo qua perché c'è un po' di freddo giù, anche perché non è che mi piace stare solo in campagna, no. Tutto lì, preferisco stare qua a casa, ogni tanto faccio una scappata, scendo giù, do una controllata e poi me ne salgo, la verità. Se sono belle giornate magari fa piacere, magari non è freddo. La sera, dopo le 5, comincia a scendere un po' di umidità, là, e io non risento con questa trusi cervicale, è un casino, capito? No, ma io non me ne devo mettere a fare niente, sto pronto, fra. Già vengono gli arredatori, ho già tutto pronto, non è quello il problema. C'è da fare un po' di lavoretti esternamente, altre cosette, finire la parte del piazzale di dietro, cioè, già ce n'è cose da fare, ma non è quello il problema. Quando ho fatto tutto poi decido dove mettere queste radio che mi sono rimaste, boh, ma non pensare che faccia cose matronotiche come ho fatto qua, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto, KK, poi mi è arrivato il messaggio di Giuseppe, che ci sta, mi sto ancora controllando il video, veramente complimenti per il DAC, caro mio, il DAC è DAC. A parte che non lo trovi più a Parigi, e chi ce l'ha se lo tiene, vabbè, se te lo paga bene, è fatto bene a venderlo, io la penso così, quando ce l'ha a fare bisogna prendere al volo, claro. Non bisogna diritti lasciare, se ti ho portato bene, pagato bene, gli avrei dato al volo. Sono delle belle radio, dispiacciono darle, però quando ne hai un bene cosa ne va? Io ne avevo di questi baracchini in radio, mi ha tutti venduti, cosa ne va io? C'avevo il Superstar, c'avevo il Condice 3006, c'avevo il 4005 della Intec, dammi cose che non va più, la Fayette, il Typhoon, ne avevo una marea, tutti venduti meglio. No, ma io già ne ho, c'ho anche quattro veicolari, fra, ma no, non mi interessano a me i baracchini veicolari. A me piacciono questi base, capito? Il DAC, ti ripeto, gliel'ho dato questo collezionista perché almeno sono sicuro che ce l'ha un collezionista, perché c'è molta gente che non apprezza e quindi non penso di comprare un baracchino o un Alan 48, questo è un radio che valgono un sacco di soldi. Lui, siccome apprezza quello che è una radio del genere, mi ha fatto un'offerta buona e quindi ho ceduto. Ma in compenso, oltre a questa, me ne ha preso altre tre, capito? Quindi, tanto è vero che il trasporto lo pago io, perché insomma l'offerta è buona, dai, fra, già te lo dico in persona. Cosa pensi di comprare a Sassari? L'Alan 48 comprendo un DAC, ma non te nanni. La lascia perdere. Gappa. E niente, poi il problema è che se trasloco questa radio rimane dentro l'armadio come sempre stata quando ero in via Pascoli, perché ce l'ho da un sacco di anni, ho questa, sempre conservata bene, sempre ben custodita, perché non voglio fare nuovamente piani contro piani, eccetera, eccetera, capito? Fra? voglio un angolino già stabilito, io so dove, dove metto due radio e boh, se mi va ne accendo, se non mi va rimangono spente. Mentre invece quando sei così, in una sala radio così come c'ho io, una camera tua, sei sempre in un cadretto, lampado, e sei sempre attaccato alla radio. Invece lì, in sala radio, non ne hai, se sei di passaggio si accende a vedere chi c'è, ti fai due chiacchiere e ti innandi. Io vivo qua dentro, mi fra, c'ho tutto, televisore, computer, radio, tutto chi su mi scivi. E non voglio cadere nuovamente nel tranello, capito? Mi voglio godere bene la casa, stare un po' più in compagnia, eccetera. No, sta sempre attaccato al baracchino. Come se andassero a menare le balle, mi. Beh, certo, ma c'è perché? Perché quando c'è la sala radio, permette la passione, ti dà, passi, accendi, ti scivi, ti rilassi, guarda, adesso io ce l'ho, cavolo, la vento qua. Sto guardando la TV e sto parlando al bar, alla radio, capito? Però io da quella camera là, già lo sai dove c'era il salone grande, adesso ho modificato tutto, la roba, l'ho tutti cambiati i mobili, cazzo, c'è di una fatto un tutto, Claudio, ho rifatto la cucina, dove c'avevo prima la cucina piccola l'ho riportata dentro, ho fatto un cucinone grande, tutti i mobili nuovi, cazzo, tutta carina, riverniciata, non pare più la casa di prima, ho aperto la porta, gli ho messo le porte nuove, cazzo, tutto diverso, capito? Prima era tutto un casino questa casa, ho rifatto tutto bene l'impianto elettrico, cazzo, attaccavo una cosa e ci attaccavo il buttatore, qua, cazzo, un casino, non te ne dico. Ho rifatto l'impianto dell'acqua, lo stesso tubi tutti nuovi, il bagno è rifatto a nuovo, cazzo, un po' di soldini, però diciamo che sono contento di quello che ho fatto, dai, non mi posso lamentare. E poi anche Lucia ha collaborato, la verità si dica, non dovevo dire niente perché, cazzo, è una brava persona, tutto lei è qua, perché a me non mi va vedere di sbiancare, perché sono una frana sbiancando. Vabbè, anch'io non è che sono molto pratico, la verità, poi è una cosa che mi stufa a me, la cosa di bianchina e fa, tanto è vero che a me me l'hanno fatta degli amici, che non stavano lavorando, era una cassa integrazione, l'ho fatto fare a loro, capito? Lì in campagna, là, vicino a Temi praticamente, c'è anche a Luca vicino, a Luca Manicomio, rimane appena un po' più su, dalla campagna di Marina, già lo so Luca dove sono, e quindi niente fra, niente, è così, va bene così, no, io già ne ho da fare, poi ripeto, ci sono tante cose che vogliono, si possono fare, perché volendo le basi ce le ho già, le radio ce le ho, non mi manca niente, potrei tranquillamente comprare uno di quei prefabbricati in legno, metterlo a fianco alla casa, di quelle 6x3, 18 metri quadri, se ti entra dentro cosa fai, ti isoli di nuovo? No, io fra qua sto benissimo, però sta iniziando questo condominio dopo tanti anni un po' a cedere, l'amministratore sta mollando, c'è 20 anni, è già grande, anziano, quindi ha già inteso via Gomaro, poi cioè, la decisione l'ho già presa da 2 anni fa, quindi alla fin fine ho fatto quello che dovevo fare. Non mi dispiace, sono stato bene qua per carità, però cioè vai a risparmiare un sacco di soldi, fra 120 euro di condominio. Abbiamo un preventivo già approvato ad unanimità perché qualcuno è d'accordo, qualcuno sì, qualcuno no, insomma, sai, ci sono sempre i franchi tiratori, no? Che prima dicono una cosa, poi ne vanno un'altra. Preventivo allucinante per quanto riguarda le facciate, quindi ho detto ma io gatta giù il tempo, baghendi, cura a casa, chi se ne rivende, 160 metri quadri, quella che c'è lì a Regione Balcone, Balcone, sì, 160 metri quadri, me. Hai capito, un bifamiliare, 8 e 8, me. Quindi avrò voto a Samini ancora uno che avrà. Infatti, lo conviene. Anche perché cazzo ti fanno pagare un casino di soldi di condominio, questo, l'altro, cazzo qua è un ribus questo condominio, perché quando è proprietà tua devi pagare tutti i lavori che ci sono da fare, li devi pagare sempre la tasca, capito com'è? Funziona così. Vabbè, ti stavo dicendo, ma con l'MB più 5 l'hai sistemato, l'hai tagliato quel ponte? Non hai visto, te l'ho fatto sentire poco fa. Te l'ho fatto sentire poco fa che lo stavo usando col Midland. L'hai sentito poco fa. Esce molto molto bene. C'era questo filo che andava da un punto della, non so neanche da dove, ho visto il soldato sul circuito stampato da una parte e all'altra, dove c'è il rosso da una parte non c'è niente, dall'altra è attaccato dove c'era il rosso del positivo del microfono, va giù tagliato, è perfetto, non ronza più, non fa niente, sono stronzate, guarda che non viene bene a dirlo, cazzo, io non riesco a comprendere a chi deve arruinare i microfoni così. Ma non te ne dico, non te dico nome, ma l'ha dato un microfono, non so ce lo conosci, già lo conosci, l'antello, quello da 1,5, la batteria da 1,5, quello per amplificati vecchi, non so come quanto anni va, l'ho aperto, cioè io l'ho preso così senza aprirlo, l'ho aperto nel circuito stampato, guarda, cosa ti posso dire, una grande cagata, tutte saldature a bolle, guarda, io non ho mai visto lavoro di merda così, te lo giuro qua, i fili della capsula tutti scaldati col saldatore, cazzo, ma chissà che cacchio gli fa questi lavori di merda così, ho detto. Fra i garivazzi, di batticcioni ho fatto, perché quando uno progetta un microfono ed è progettato per essere usato in quella maniera, non ti dico che cazzo tu ti metti a modificarlo, cosa devi modificare? Non devi modificare nulla, lo devi lasciare così, perché io ne ho comprato due, un più 5 e un più 4 per i baracchini, ed escono bene senza essere toccati, senza niente, ma di cosa si muove a vedere? Cazzo, allora un ingegnere manco che fa un progetto per quel microfono e tu vai a modificarlo, a fare i ponti e cagate, ma non esiste una cosa del genere. A me infatti ieri mi ha mandato Giulio avanti ieri il disegnino, mi ha detto guarda se è questo, quindi te l'ho segnato con la penna, guarda se lì c'è un ponte da lì a lì taglialo perché non serve a niente, e infatti ne ha aggiunto agli altri un microfono, è durato normale, anzi prima l'ho tagliato, ho provato il microfono, visto che andava bene, poi ho preso il saldatore e l'ho dissaldato completamente i due fili per non lasciarlo così sporco all'interno, capito? Ho rifatto nuovamente appena appena le saldature che erano fredde, e un microfono è a posto. E in quel punto hanno potenziato praticamente la resistenza, ma non serve a niente, cioè è una cagata. Ho preso un MB più 4, non ti dico a chi l'ho preso, da una bassona di Sassari, che infatti quando lo trovo già glielo dirò. Una grande cagata anche quello, ho messo le mani, fili aggiunti, me la capsula, cioè, ma io non ho mai visto una cosa del genere, cazzo. Cioè tre fili, tutte e tre nastrati, ritagliati e rinastrati, cioè, ma senza essere saldati, buttati così, ma che cazzo, ma lavori di merda così ci fanno, cioè, io qua dico la verità, non mi vanto, però io quando metto le mani nelle cose me le faccio perfette, fatte bene, e non voglio di queste saldature cagate, fili aggiunti, contraggiunti, che cazzo, cambialo tutto il filo, cosa stai a aggiungere 4-5 volte in un filo, ci fai 5 aggiuntini. Infatti. E vabbè, poi quando ci vediamo se ce la fare qualche lavoretto, qualche cosa te la faccio fare, non c'è problema. Facciamo un altro, già ci mettiamo d'accordo, già lo sai. Adesso devo vedere, perché ho portato tutte le carte di questa casa stamattina, se le ha tutte fotocopiate, tutta la roba del catasto eccetera, perché le ha chiesto la banca per poter iniziare a fare la documentazione per l'atto, capito? Infatti ci dobbiamo vedere, come ha detto, il 2 di marzo, così mi eroga il 70% dei soldi e il 30% quando facciamo l'atto, che lo facciamo a metà marzo. Perciò devo muovermi per poter iniziare a imballare, fare, ho comprato una ventina di cartoni, quelli per fare le cassette. Ma per Daniela non sapevo, hai visto dov'è quell'affare che c'è dietro Cittamercato, quando vende praticamente i cartoni, c'ha tutte le misure già piegate, dove poi tu le apri e fai le scatole. Allora io lo so dove voglio aprire le scatole, quando dovevamo fare del trasloco e roba del genere, praticamente visto gli cinesi che ci sono vicino a Portobello, dietro lì ci sono un po' di cartoni, gli richiede te le danno, ma sono anturnani e sono già piegati, devi mettere lo scotch e basta, capito? Ce ne sono grandi, medi, piccoli, tutte le misure. no, questo li vende proprio, capite? Ne ho preso, allora sono 15 cartoni, ce ne sono medi, cioè grandi, medi e piccoli. Ho pagato 15 euro mi sembra. Ma quello che stavo dicendo io non li paghi, infatti io la volta che mi sono rivolto anche l'ho chiesto, ho detto ma me le dà un po', mi dice vai dietro lì che sono già piegati, tre carichi quelli che vuoi, mi ha giubergato un po'. E abbiamo messo la roba dove dovevamo mettere con Lucia e tutto lì. No, non li ho comprati, li ho recuperati da lì, tutto qua. Come sta facendo questa radio? Sta prespingendo bene sta? Alla grande, non problem, non problem. Tu dimmi se questa difetta è per carità, perché ti ripeto, era due mesi spenta, ma la stavo accendendo. Infatti l'ho accesa dopo pranzo, l'ho lasciata accesa, sto a posto, ho attaccato il microfono. Ho iniziato a far andare, ho provato i vatti, sto a posto e poi stasera gli ho mandato il video e quindi tutto ok. No, non l'avevo, davvero fra, io questo, il DAC ce l'ho una vita, non l'avevo mai provato col microfono normale. E tu mi gioco un in cuffia, tu non posso, ma il tuo microfono è preamplificato. L'ho aperto, c'è la capsula normale, proprio normalissima, non c'è niente dentro. Ma spinge che è una bellezza, guarda. Perché prende la preamplificazione dalla radio, l'alimentazione dalla radio. Tutto lì. Sì, bene, sono delle belle radio ora lì, qua. Vanno bene. Ma questo, io con questo adesso, questo è a 10 e se ne va a picco di 50, e sto parlando a distanza, tu, questa è una bestia, che tu dovrai uscire 5 volte, è una bella radio questa, la verità, non mi ha dato mai problemi questa radio, mai, e ce l'avevo un po' di tempo ferma, Fra, sono dei muletti, il 140 e il 70 sono dei muletti assieme al 430, io il 430 l'avevo comprato a Walter 10 anni fa, capito? E non l'ha mai fatto nulla, è stato solo cambiato il display qua a Sassari, perché si erano bruciati gli ultimi decimali e finalmente mi sono deciso, ho conosciuto questo bravo tecnico che è anche abbastanza onesto e gliel'ho mandato funzionante, infatti quando gli è arrivato mi ha detto ma cosa c'è da fare questa radio, ha detto lo devi revisionare, cosa ne so lui, poi aprendo, controllando e facendo ho visto che sono a cambiare un po' di spinette e l'ho detto guarda, mi ha chiamato la verità perché mi avvisa sempre, ho detto fai tutto quello che c'è da fare e mi ha detto ascolta io ti metto tutto il kit nuovo delle spinette, così ce l'hai nuove tutte rifascettate perché le fascette sono già vecchie, fa tutto chi ci vede a fare, non me ne affutti nulla, tanto io quella radio non la devo dare perché è un muletto 430 rispetto al 440 che crea un sacco di problemi, che altro ogni 3-4 anni devi fare il VCO, ti crea un sacco di casini, anzi il tetto da cazzo andati in dilla non attendi più, cioè è una radio che è bella, bellissima, perché a me mi ha dato tante soddisfazioni, ma credimi io ne ho avuto una decina, lo sai, su 10 di quelle radio lì di 440 a me mi sceglie una radio nuova con tutte le riparazioni che ho fatto, mentre il 140, il 680, il 430, queste cose non ce le hanno di indole, capito? Quella è proprio una damari, il 440 è una damari, nonostante sia una bella radio, però è una damari, crea troppi problemi. E quindi io il 436 a volte lo lascio anche settimane e settimane spento, eppure vado, accende e funziona perfettamente, prova a fare un 442 a vedere se funziona. Questo è l'effetto, in definitiva è così, in definitiva è proprio così. No, questa qua è la verità, io lo sto pilotando con l'MC60, il suo MC60 va benissimo, ma i problemi, no, la verità, l'accordatore la T250 neanche accorda perché l'antenna neanche stazionaria c'è, ed è un'antenna di merda, è quella lì, non è che sia una grande antenna, però a me non me la frega niente, quindi torna su di l'antenna, c'è la possibilità di mettere una bella antenna, ma cosa me ne affutti, va bene così. Ma cosa di ne affutti, ma per quelli che siamo a Sassari, o fra un po' quelli che siete o sarete, perché io un po' mi allontanerò sicuramente, cioè, ti ripeto, una volta che smantello tutto qua, non è che devo pensare a piazzarmi del radio come ha fatto quando sono arrivato qua, la prima cosa ha giubbato, manco l'immobile ha giubbiazzato, ma ha giubbiazzato il radio, c'era più passione, c'era più voglia, c'erano meno problemi, meno preoccupazione eccetera. Adesso io mi devo preoccupare di fare quello che devo fare a casa mia, non devo pisciare il radio. Se poi avanza tempo dedico anche un po' di spazio alle radio, ma sarà una cosa che passa a secondo ordine, capito? Franco, perché sto eliminando le cose che praticamente sì, sono affettive, mi piace averle, come questo DAC che per me è una delle radio migliori che ho avuto come baracchino, però alla fine te ne disfi, perché vederla lì spenta dentro l'armadio oppure una lampada in terra, secondo quello che devo fare, cioè mi dispiace. E ti ripeto, questa persona è veramente in gamba, perché io non gli ho detto niente, ha fatto du teddu, come gli ho mandato il video, mi ha detto ti va bene questa cifra, cazzo, sono rimasto di ciucco. L'ho detto va bene, ok, accordato, va bene, ha fatto tutto lui. Quindi quando una persona